Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben ritrovati a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Piazza Affari cambia volto, ancora una volta potremmo dire, perché i cambiamenti che sono intercorsi negli ultimi anni sono stati diversi. Da lunedì prossimo cambia qualche nome, gli operatori, gli investitori dovranno dire addio al vecchio S&P MIB 40 per abituarsi al nuovo indice, il FTSE MIB. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione del mercato italiano con la borsa inglese, il London Stock Exchange Group. A cambiare nome sono tutti gli indici della borsa italiana che migreranno appunto verso i nuovi FTSE Italia. Si concretizza sempre di più l'attività del più grande mercato finanziario europeo, che alla partenza 2 anni fa aveva oltre 5 miliardi e mezzo di capitalizzazione. Con la crisi finanziaria questo valore si sarà indubbiamente drasticamente ridotto, ma in ogni caso l'integrazione è andata avanti e da lunedì si segnerà questa nuova importante tappa, della quale vogliamo mettere a conoscenza tutti i nostri ascoltatori. Per aiutarci a capire l'impatto di questa novità, che in realtà non celano solo un puro cambio nominativo, oggi abbiamo interpellato alcuni interlocutori in grado di darci una mano. La collega del Sole 24 Ore, analista finanziario, Valeria Novellini, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Tra l'altro qualcuno mi dice un vero mastino nella lettura delle trimestrali, nei bilanci e nei prospetti informativi. E poi un operatore di mercato, chiamiamolo così, Emanuele Vizzini, direttore investimenti, SGR Gruppo Allianz. Vizzini, bentornato anche a lei. Buongiorno a voi. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori. Anche io ne ho parecchie, perché faccio un po' fatica ad orientarmi nei nuovi nomi dei nuovi indici che appunto invece dovrò conoscere molto bene a partire da lunedì mattina, quando vi racconterò l'andamento della borsa. E allora il numero verde, l'ho ricordato, 349 238 6666, è invece il numero per i messaggi dei nostri ascoltatori. Prima, diciamo, dei cambiamenti che riguarderanno la borsa a partire da lunedì, andiamo un po' a vedere invece i numeri di questa mattina, come si sta comportando la borsa oggi in Europa. Ieri abbiamo avuto negli Stati Uniti un balzo a sorpresa dell'indice di fiducia dei consumatori elaborato dal Conference Board, un dato che ha sorpreso in maniera decisamente inaspettata le attese degli analisti, tanto che gli indici sono schizzati verso l'alto, chiudendo con un rialzo del 2,37% per quello che riguarda il Dow Jones, il Nasdaq più 3,45%, lo Standard & Poor's 500 ha chiuso con un progresso di oltre 2,5 punti. Questa seduta americana naturalmente stamattina ha spinto notevolmente tutta l'Asia e sta continuando a spingere anche l'Europa, che è tutta in rialzo, anche se era partita molto bene la seduta, poi c'è stata un po' di marcia indietro. Adesso invece si rinforzano ulteriormente gli indici europei. Parigi più 0,87, abbiamo un più 0,66% a Francoforte, a Londra più 0,20, Milano più 0,43%, un po' a metà strada fra le performance delle altre piazze europee. A Milano svetta Fondiaria, guadagna quasi il 4%, Parmalat più 3,79, corre il titolo di Collecchio da questa mattina, da quando sono cominciati a circolare fra le sale operative indiscrezioni su un possibile interesse da parte del gruppo francese Danone. Popolare di Milano più 3,27, Buzzi Unicem più 2,77, abbiamo 2 punti di rialzo per Autogrill, per Geox più 1,74, per Bulgari Enel più 1,65, Lottomatica in rialzo di 1,5 punti con Prismian. Debole invece UbiBanca, perde 1,35%, Mediolanum meno 0,99, Campari meno 0,8, la ex Autostrade meno 0,46, Telecom meno 0,30, Eni meno 0,29%. Ovviamente attesa anche intorno a Fiat, che sta andando da una parte all'altra della parità. Adesso è tornato di nuovo positivo il titolo del Lingotto, più 0,13%, ad un passo dagli 8 euro. Tra poco è attesa la decisione del governo tedesco appunto sui destini di Opel, e vedremo se il Lingotto appunto e Sergio Marchionne potranno spuntarle in questa partita assolutamente importante per l'industria automobilistica internazionale. L'euro sul dollaro quota 1,3943, stamattina il rapporto di cambio si è riportato di nuovo a 1,40, adesso una nuova piccola marcia indietro. Il petrolio oggi riflirtava di nuovo con i $62 al barile, almeno questo nelle precontrattazioni sul mercato americano. A Londra siamo sui $61. Direi che possiamo lasciare la borsa, ma solo per quello che riguarda le performance degli indici di questa mattina. In realtà di borsa continuiamo a parlare, perché arrivano cambiamenti molto importanti per quello che riguarda la borsa italiana. Dal 1 giugno 2009 i risparmiatori e gli investitori italiani dovranno dire addio al vecchio S&P MIB e dare il benvenuto al nuovo FTSE MIB. Gli indici di piazza affari, infatti, subiranno una piccola ristrutturazione, compiendo così un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione del mercato italiano nel London Stock Exchange. Si tratterà di un vero e proprio restyling. Gli indici del listino milanese saranno sostituiti da indici del tutto simili ai precedenti e manterranno gli attuali valori, a parte alcune eccezioni. L'indice S&P MIB diventerà FTSE MIB e sarà composto dai 40 titoli delle società di grandi dimensioni per liquidità e capitalizzazione. Il Midex sarà sostituito dal FTSE Italia Mid Cap e arriverà a 60 titoli quotati contro i 30 precedenti. Al posto dell'All Star ci sarà il FTSE Italia Star, con 75 azioni. In generale, il MIBTEL sarà sostituito dal FTSE Italia All Share, che includerà il 95% dei titoli dell'intero paniere, ossia 250 azioni contro l'attuale MIBTEL, che ne conta invece 275. Il matrimonio tra Borsa Italiana e il London Stock Exchange si era concluso quasi due anni fa, nel giugno del 2007, con la nascita di una holding di quasi 4 miliardi di euro di capitalizzazione e oltre 3.500 società quotate. A un anno di distanza, nel maggio 2008, il bilancio della fusione è stato positivo, almeno sulla carta, con un aumento degli scambi del 13% rispetto all'anno prima. Tuttavia, fin dall'inizio è emersa la doppia velocità tra Londra e Milano, in parte dovuta alla differenza strutturale tra il mercato inglese e quello italiano. A Piazza Affari, infatti, hanno sempre avuto un ruolo importante i piccoli risparmiatori, mentre oltre manica il mercato è stato sempre appannaggio dei grandi investitori istituzionali. E nell'ultimo anno proprio la Borsa Italiana ha risentito in misura maggiore della crisi dei mercati finanziari. Ci sono tanti motivi per cui Piazza Affari ha risentito più delle altre borse europee della crisi in generale. La composizione dei listini, questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte, se avremo tempo lo rifaremo anche questa mattina. Intanto però andiamo ai cambiamenti con i quali avremo a che fare a partire da lunedì. Vedo già molti ascoltatori intenzionati a porci i loro quesiti, perché in particolar modo ci sono diversi ascoltatori che hanno dei prodotti indicizzati, in particolar modo ETF ai listini appunto italiani, e quindi si chiedono inevitabilmente, necessariamente, che cosa succederà al loro investimento. Niente paura, nessuno vuole spaventarvi, affrontiamo questo argomento perché è necessario che dal punto di vista informativo conosciate tutte le novità in arrivo, ma per quello che riguarda i nostri investimenti e i vostri investimenti nessun cambiamento radicale li riguarderà. Cominciamo con Emanuele Vizzini, direttore investimenti investitori SGR Gruppo Allianz. Comincio con lui, Valeria, perché fra un po' se ne deve andare, per cui lo spremo un po' di più nella prima parte della trasmissione. E allora, anche per voi investitori professionali, professionisti, Vizzini, si tratta di una rivoluzione appunto da considerare come drastica questa, e soprattutto qual è il cambiamento che ritenete più importante appunto in arrivo da lunedì? Ma guardi, drastica direi assolutamente di no, si tratta chiaramente di alcuni cambiamenti legati alla nuova proprietà della Borsa Italiana, e che riguarda essenzialmente alcuni aspetti, principalmente il fatto che si vada ad utilizzare il criterio del flottante invece che quello della capitalizzazione per l'indice che sostituisce il MIBTEL, che si chiamerà FTSE Italia All Share. In questo caso ovviamente l'indice si adegua a un criterio che ormai viene diffusamente impiegato per gran parte degli indici di borse internazionali, e questo naturalmente avrà un impatto sulla composizione e sulla percentuale di alcuni titoli presenti nell'indice. Quindi qualcuno avrà un peso magari più forte rispetto alla situazione precedente, alla situazione attuale, qualcun altro invece diminuirà il suo peso sull'intero indice. Esattamente. Secondo lei in particolar modo quale titolo sarà interessato a questi movimenti? Chiaramente questo dipende dal tipo di azionariato che le varie società rappresentano. In generale dovrebbero aumentare di peso alcuni titoli tipo Unicredito, Generali, Telecom Italia, Intesa San Paolo, che hanno chiaramente un azionariato diffuso e quindi maggiore flottante. Dovrebbero ridursi invece in termini di peso alcune società che ovviamente hanno un livello di floating minore, quindi Tenaris, Edison e altre società. Però direi che l'altro aspetto assolutamente interessante da considerare è che uno dei criteri di inclusione è quello di avere una sola tipologia di azione per ogni società. quindi sostanzialmente ciò vuol dire che verranno escluse le cosiddette azioni di classe B, quindi le azioni di risparmio e le azioni di privilegio che sul mercato italiano hanno un'importanza e anche storicamente sono diciamo oggetto di affezione da parte di molti investitori. Queste società naturalmente continueranno a essere rappresentate dalle azioni ordinarie, ma le azioni di risparmio, i titoli di risparmio e i titoli di privilegio usciranno dagli indici, quindi questo potrebbe avere un effetto in termini di ribilanciamento degli indici stessi da parte di chi naturalmente ha una indicizzazione elevata del proprio investimento o da parte degli investitori in ETF o in altri strumenti del genere. Quindi insomma, da quello che abbiamo capito, i cambiamenti non saranno solo di facciata, ovviamente qualche cambiamento anche estremamente concreto c'è. I cambiamenti più importanti riguardano l'indice generale, quello che era praticamente l'ex indice telematico, l'ex MIPTEL, a questo punto sarà ex a partire da lunedì, diventa FTSE Italia All Share. Per quello che riguarda invece il FTSE MIB, cioè l'indice che prenderà il posto dell'S&P MIB 40, Valeria Novelli, in questo caso aiutaci tu, questo indice è il principale paniere di Piazza Affari, invece, come dire, oltre al nome non dovrebbe cambiare come dire, metodologia di calcolo. No, non cambierà significativamente metodologia di calcolo, nel senso che naturalmente i 40 titoli che vi sono inclusi saranno sempre quelli, perché anche con i nuovi criteri di calcolo per flottante, diciamo, e liquidità saranno sempre i primi 40. Quello che potrà cambiare, come già diceva il dottor Vizzini, è il peso relativo di questi indici, di questi titoli all'interno dell'indice. E poi c'è anche da dire che con il nuovo indice FTSE MIB la caratteristica è che c'è però un capping sul peso che ogni singolo titolo può avere sull'indice, che per l'SP MIB e ora per il FTSE MIB in realtà è del 15%. Comunque non credo che vi siano società che raggiungono o superano questo capping massimo. È stato messo per evitare che ci fossero titoli con un peso eccessivo all'interno di ogni singolo indice, che quindi possono spostarlo eccessivamente. Quindi anche queste banche, che in genere diciamo pesano tanto nell'ambito del nostro indice di riferimento, non raggiungono comunque questo livello di capping. Ce lo puoi tradurre per i nostri ascoltatori, Valeria, se io non mi strozzo prima con la voce anche stamattina? Capping vuol dire tetto massimo e quindi praticamente indica la percentuale massima del peso che un titolo in questo caso può avere all'interno dell'indice. È evidente che se sono 40, esatto, se uno ne prende il 15% ce ne esclude esatto. Però in ogni caso, insomma, questa precisazione c'è, questo vincolo c'è, questo limite c'è, anche se è impossibile appunto che una società in un listino che ne contiene 40 è difficile appunto che possa raggiungerlo. Allora, queste sono le due novità più importanti al momento. Poi c'è tutto un rimescolamento anche per quello che riguarda gli indici che invece quotano le società a media capitalizzazione, per esempio, tanto per raccontare una novità che non so se tra l'altro parte da lunedì, ma credo che riguarderà questa data, scomparirà l'Expandi, Valeria. Certo, scomparirà l'Expandi, cioè fisicamente come segmento di quotazione separata scomparirà in realtà dal 22 giugno, data questa già fissata precedentemente. E invece però per quanto riguarda l'inclusione negli indici di borsa, le società dell'Expandi saranno incluse nei nuovi indici FTSE, ciascuna naturalmente con il suo peso relativo. Non ci saranno in questo caso spostamenti per quanto riguarda l'indice FTSE MIB, perché sono troppo piccole comunque, però già per quanto riguarda il secondo indice, cioè quello delle mid cap, ci potranno essere degli ingressi in questo nuovo indice. Quindi qualche società che adesso viene quotata sull'Expandi potrebbe finire nel vecchio Midex, che da lunedì sarà il FTSE Italia Mid Cap, che sarà composto da 60 titoli più grandi per capitalizzazione contro i precedenti 30. Questo tra l'altro diventa molto più grande. Esatto, diventa molto più grande e secondo me è anche corretto, perché rispecchia una caratteristica che c'è proprio nel mercato italiano, che è quella di essere composto da tante società relativamente di medio-piccola capitalizzazione. Infatti una rappresentanza, diciamo, del nostro modello, tipicamente del nostro modello produttivo. Ci sono altre novità per quello che riguarda l'All Stars, il FTSE Italia Small Cap. Adesso arriviamo a parlare di tutti, però vorrei cominciare anche a sentire i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Cominciamo con un'ascoltatrice, anzi Marisa da Varese, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una piccola domanda ai suoi esperti, in parte hanno già risposto. Sì, la rifacciamo perché tanto mi sembra di capire che queste cose andranno ripetute ancora per qualche tempo, sì. Allora, per quanto riguarda l'ETF Standard & Poor's MIB, che praticamente muterà in FTSE da lunedì, sì. Chi ha gli ETF, ad esempio, che hanno proprio questa dicitura legata a questo indice e che tra l'altro alcuni pagheranno o dovrebbero pagare proprio i primi di giugno una specie di dividendo. Volevo sapere, uno, se questo viene assicurato. Speriamo che sia un dividendo nella realtà. Prodotto finanziario legato a questo indice. Sì. E se cambierà proprio la dicitura dell'indice e ovviamente cosa si aspettano gli esperti sull'indice stesso, aumenterà, diminuirà? Beh, certo, beh sì, questa è una domanda che diciamo prescinde dal nome. Allora, per il FTSE MIB, quindi l'indice che dal punto di vista nominativo da lunedì prossimo prenderà il posto dell'S&P MIB 40, sentiamo Emanuele Vizzini. Allora, perché ha un ETF che replica identicamente l'andamento di questo indice di riferimento, Vizzini, ribadiamolo ancora, non cambia assolutamente nulla, per cui io mi rendo anche conto che con tutti i nomi che stiamo facendo ce n'è abbastanza per spaventarsi un attimo, comunque per confondersi. Di fatto è un'integrazione molto importante che sta andando avanti e che ci rende anche un po' più internazionali, visto che eravamo sicuramente la borsa più piccina tra le più piccole d'Europa, e questa è un'integrazione che comunque ci ha portato alla ribalta della cronaca finanziaria internazionale. Tutte queste novità sono necessarie, Vizzini, insomma, però il piccolo risparmiatore si confonde inevitabilmente. Allora, sull'ETF indicizzato all'S&P MIB. Sì, credo che sia assolutamente essenziale essere chiari. In questo caso si cambia la denominazione dell'indice, ma non si cambia la composizione e soprattutto non cambia neanche il criterio di calcolo, la metodologia di calcolo dell'indice stesso. Quindi a partire dal 1 giugno di fatto non cambia niente se non il nome dell'indice su cui viene calcolato l'ETF, pertanto non ci sono assolutamente timori sul fatto che ci sia una ricomposizione, diciamo, non voluta tra i titoli compresi all'interno dell'ETF, quindi dell'indice, né tantomeno c'è da temere ovviamente per che le società non stacchino le cedole, certo, infatti ci mancherebbe altro. Da questo punto di vista tranquillizzerei assolutamente tutti gli ascoltatori sull'assoluto mantenimento dello spirito dell'investimento e quindi infatti, anche della composizione. Tra l'altro l'ascoltatrice di Varese subdolamente, ma in maniera affettuosa glielo dico, dice: già che ci sono vi faccio anche una domanda su quelle che possono essere le prospettive dell'indice di Piazza Affari. Vizzini, insomma, questa borsa che ovviamente si confronta con una crisi finanziaria molto importante, una borsa che in linea con il resto dei mercati finanziari internazionali dai minimi toccati questo terribile 9 marzo scorso si sta riprendendo grazie anche al recupero delle banche, di tante altre società industriali. Una piccola prospettiva anche di breve periodo è possibile farla, anche se so che questa crisi, lo abbiamo detto più volte, adesso permette molto meno di sbilanciarsi ad analisti ed economisti. Ma assolutamente, però credo il nostro compito sia quello anche di dare un'opinione, e effettivamente direi che il vento è sicuramente cambiato, la sensazione che ci sia un diverso atteggiamento verso il rischio da parte degli investitori istituzionali, ma anche degli investitori privati, anche di dimensioni non enormi, quindi questo è sicuramente un segnale positivo sul fatto che i mercati possano da prima recuperare razionalità e poi successivamente anche trovare una strada verso la crescita, cosa che peraltro è già avvenuta in modo un po' disordinato per alcune società che sono state citate, quindi le banche, molte società cicliche. E quindi da questo punto di vista forse consiglierei di guardare con maggiore attenzione quelle società che ugualmente hanno perso molto, ma che appartengono a settori in cui magari la visibilità degli utili e anche della distribuzione di dividendi, visto che si parla parlava prima di dividendi, infatti, è un po' maggiore, quindi mi riferisco sostanzialmente alle società telefoniche, le utilities e magari a qualche caso particolare come Enel, che dopo l'aumento di capitale magari potrà trovare nuovamente interesse da parte di molti investitori. Allora, quindi ci siamo anche un po' sbilanciati su quella che potrebbe essere una prospettiva di medio periodo per l'indice che da di Piazza Affari, che da lunedì cambia nome. Cambiamenti in vista per Piazza Affari, e qua Valeria Novellini è ansiosa di tornare a fare ulteriori precisazioni rispetto a quello che abbiamo raccontato questa mattina. Non ne sono necessarie, però bisogna ancora tornare a spiegare alcune cose ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 o che ci stanno chiamando all'800-24-0024. Quali sono questi cambiamenti in vista a Piazza Affari? Gli indici del listino milanese a seguito dell'integrazione del mercato italiano nel London Stock Exchange Group, cioè nella borsa inglese, cambieranno nome e migreranno sul FTSE Italia. Tanto per darvi conto del cambiamento più importante, l'S&P MIB 40 scomparirà, cederà il posto al nuovo FTSE MIB, mentre non saranno più calcolati il MIPTEL e il MIDEX, che saranno sostituiti dai nuovi FTSE All Share e FTSE Italia Mid Cap. Queste e tante altre novità ne stiamo spiegando insieme alla collega del Sole 24 Ore, analista finanziario Valeria Novellini, e Emanuele Vizzini, direttore investimenti investitori SGR Gruppo Alli. Allora, sentirei qualche altro ascoltatore. Anna dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Una domanda forse banale. No, non c'è niente di banale, guarda Anna, in questa puntata, perché faccio una fatica anche io a star dietro a tutto. Che... Volevo chiedere, sì. Uno ha un portafoglio titoli, se sono titoli italiani hanno una gestione, un costo, titoli esteri invece diverso. Ora, alla luce di quanto sopra, possono coesistere titoli italiani e esteri gestiti nello stesso conto titoli? Anna, non vedo quale sia il problema, anche in relazione alla novità di cui stiamo parlando di questa mattina, il cambio. Valeria Novellini, aiutami tu. No, non cambia assolutamente nulla, l'unica diversità è che con il nuovo calcolo degli indici FTSE non vengono incluse nel calcolo degli indici le azioni estere che sono quotate anche sul mercato italiano, però dal punto di vista della gestione titoli nei depositi non cambia assolutamente niente e possono tranquillamente coesistere. Anche perché ricordiamo che se ci fosse una rivoluzione radicale che dovesse cambiare tutti questi aspetti anche che ci state sottoponendo, insomma, saremo di fronte ad un cambiamento epocale che avrebbe anche determinati tempi. Sicuramente l'integrazione con la borsa inglese è in corso da 2 anni e ha avuto delle tappe molto, molto importanti, ma che hanno avuto appunto un percorso abbastanza lento, perché insomma stiamo parlando di questo cambiamento da 2 anni, per cui state tranquilli che nessuno vi rivoluzionerà il portafoglio. Peraltro, Valeria, un altro aspetto con te, poi anche qualche altra domanda a Valeria Novellini. Siccome altri ascoltatori continuano a scriverci che hanno acquistato degli ETF, c'è un ascoltatore Antonio che dice per esempio: l'ho appena comprato un mese fa un ETF indicizzato all'S&P MIB della società Lyxor, che fine farà questo prodotto, conviene disinvestire? Allora, il tema, a prescindere dalla scelta che deve fare Antonio, la società che ha emesso questo ETF io credo abbia anche uno specifico obbligo informativo nei confronti di questo investitore, gli farà sapere che il nome di questo prodotto cambia? Sicuramente dovrebbe fargli sapere con una comunicazione che cambia il nome del prodotto, ma che per quanto riguarda tutti gli altri effetti non cambia nulla per questo prodotto, e quanto al suo andamento continuerà a dipendere da quello dell'indice sottostante, in questo caso il FTSE MIB, che però avrà, attenzione, avrà lo stesso andamento che avrebbe avuto l'S&P MIB in analoghe condizioni. Non dimentichiamoci che questi indici partono ora, ma è stata fatta una simulazione che si può trovare anche sul sito di Borsa Italiana, ritornando agli anni indietro, di quale sarebbe stato l'andamento di questi indici rispetto a quelli che attualmente abbiamo, e sono perfettamente identici, cioè lo replicano perfettamente. L'unico andamento un po' diverso, non come tendenza ma come dimensione degli spostamenti, ce lo ha l'indice di media capitalizzazione rispetto al MIDEX attuale, perché cioè appunto l'ex MIDEX, esatto, che diventa FTSE Italia Mid Cap, perché abbiamo detto che il FTSE Italia Mid Cap comprenderà 60 azioni al posto delle attuali 30 del MIDEX, quindi l'andamento è un po' più diverso, però non cambia niente. Allora, Davide della provincia di Trapani per domanda ad Emanuele Vizzini. Davide, buongiorno. Buongiorno signora Rosciani, senta, volevo fare una domanda appunto alla sua gentile ospite. Volevo capire, perché sono un po' duro di comprendonio, che cosa accadrà a tutte quelle azioni di risparmio al portatore, mm-hmm. piuttosto che non convertibili, piuttosto che le privilegiate, cioè i possessori di queste azioni, che cosa devono fare? Allora Davide, io penso che proprio banalmente non devono fare assolutamente niente, perché rimarranno del tutto titolari di questo investimento. Emanuele Vizzini, ripetiamo un po' questo aspetto, io volevo rivolgere appunto la domanda a Vizzini solo perché tra qualche minuto deve lasciarci. Vizzini. Sì, dal punto di vista dei detentori delle azioni non cambia assolutamente nulla. Naturalmente tutti i cambiamenti di cui si parla oggi sono dei cambiamenti che riguardano la composizione degli indici che rappresentano l'andamento del mercato, ma ovviamente è un cambiamento esclusivamente di rappresentazione del valore degli indici stessi, non ha nessuna incidenza sul valore dei titoli, che invece assolutamente seguono una logica legata all'andamento societario, alla dinamica degli utili e quant'altro. Nel caso degli titolari delle azioni di risparmio assolutamente non cambia nulla, i titoli continueranno a essere regolarmente quotati, negoziati. E però il tema è individuare dove, per chi non ha grande praticità nella ricerca anche dei titoli quotati, perché se scompaiono per esempio dal quello che diventerà il nuovo MIPTEL, cioè il FTSE Italia All Share, come potranno essere intercettati dagli investitori interessati? Continueranno a essere quotati regolarmente, saranno naturalmente riportati nelle normali fonti di informazione come titoli presenti sul listino italiano, non faranno più parte degli indici complessivi che in questo caso sono i FTSE Italia All Share, nel senso che questi titoli saranno rappresentati in termini di variazione esclusivamente dal loro titolo corrispondente di classe A, che sarà il titolo ordinario. Però assolutamente non devono temere gli investitori in questi titoli, non vengono né cancellati né sospesi dalla negoziazione, assolutamente un timore da fugare completamente. Vizzini, le faccio un'ultima domanda, poi la saluto, glielo prometto. Qual è il suo giudizio sul percorso di questa integrazione con la borsa di Londra, che aveva portato anche tante riflessioni nel momento in cui era stata decisa due anni fa, perché insomma noi apportavamo qualcosa come 300 società alla borsa di Londra, che invece ne quotava oltre 3.000, quindi complessivamente insomma si creava un mercato con 3.500 società quotate, in cui Milano ne portava, come ribadisco, circa 300. Quali opportunità sono arrivate per voi investitori professionali? Ma guardi, in realtà poco è cambiato, direi che purtroppo questa integrazione è avvenuta in una fase di mercato molto difficile, e sono anche da segnalare alcuni problemi nell'integrazione che hanno chiaramente un po' complicato la lettura di tutta l'operazione. Direi che sicuramente tutto quello che va nella direzione della razionalizzazione, dell'efficienza e della minore incidenza dei costi transazionali per noi è sicuramente un fattore positivo, però se devo dare un'indicazione, oggi io penso che abbiano forse più fatto i nuovi sistemi multilaterali di negoziazione come i CAIX o Turquoise, piuttosto che queste aggregazioni tra borse, dove vedo prevalere ancora molto la componente politica, tra virgolette, e dove invece purtroppo si stenta a vedere un reale valore finale per l'investitore in termini di accesso a mercati o segmenti di mercato che magari sono ancora preclusi. Ecco, un altro aspetto che potrebbe essere analizzato, magari lo faremo in un'altra occasione, anche se si sono ridotti mediamente i costi per le transazioni, perché anche questo era un obiettivo importante al quale si guardava. Detto questo, noi invece adesso stiamo esplorando sul grande cambiamento che avverrà lunedì prossimo. Io ringrazio Emanuele Vizzini per essere stato con noi, anzi lo faccio andare al suo appuntamento anche con qualche minuto di ritardo. A presto, buona giornata. Buona giornata a voi. Valeria, invece il tuo giudizio su questa integrazione qual è? Il mio giudizio, secondo me, è quello semplicemente che si è voluto procedere a una razionalizzazione del mercato per quanto riguarda gli indici, in linea con quanto accade con le principali borse internazionali. Parlavamo prima delle azioni di risparmio, attenzione, perché sono, per così dire, un'anomalia tutta italiana, perché azioni di questo tipo non esistono nei principali mercati internazionali e quindi in genere non sono comunque incluse nel calcolo degli indici, quindi anche questa è una razionalizzazione. Un'altra novità che, ripeto, forse purtroppo adesso si può apprezzare poco, ma che magari in periodi di mercato più positivo positivo si potrà apprezzare maggiormente è la nascita di questi nuovi indici, perché in realtà il MIDEX esisteva già, ma come adesso abbiamo visto viene ampliato col nuovo indice FTSE Mid Cap, ma oltre a questo nascono anche degli altri nuovi indici, sì, e in particolare nasce il FTSE Small Cap, che comprende le azioni ancora più piccola capitalizzazione, e addirittura un indice FTSE Micro Cap che tiene conto dell'ultimo 5% delle azioni che non sono più calcolate nel calcolo dell'indice generale. Questo lo dico perché questa è una innovazione che può servire eventualmente se ci fossero dei fondi comuni di investimento che vogliono specializzarsi in questi indici dimensionali. In questo caso la creazione di questi indici rende per loro più facile creare magari degli indici specializzati. No, poi tra l'altro c'è anche un altro aspetto, adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, non è sicuramente il contesto di mercato più favorevole per questo, però ci si è spesso lamentati, lo si è fatto da più sedi, del fatto che la piccola impresa italiana non ha una grande facilità nella quotazione. Forse anche tutto questo potrebbe incentivare un po' di più anche lo sbarco in borsa, appunto, di tante società che fino a questo momento, per questioni dimensionali, per questioni diciamo di governance interna, tante altre problematiche, non hanno avuto il piacere di fare il loro ingresso in borsa. Chissà che tutto questo non possa sbloccare anche questo procedimento, ribadisco, chiaramente tenendo conto del momento di mercato che non è assolutamente favorevole, ma magari in prospettiva potrebbe avvenire anche questo cambiamento. Eccoci ritrovati a Salvadanaio per l'ultima parte. Questa mattina il nostro Salvadanaio va ad esplorare un po' quello che succede a Piazza Affari, perché da lunedì, come vi ricordavo, come vi abbiamo già detto ampiamente nella prima parte, arriva un vero e proprio restyling per la borsa italiana, perché ci sono dei cambi di nome, ci sono dei cambi di composizione di alcuni panieri, di alcuni indici, il tutto in virtù di questo procedimento di integrazione con la borsa di Londra che sta andando avanti da 2 anni a questa parte. In tutto questo intanto però magari commento con Valeria Novellini, la mia collega del Sole 24 Ore, anche se lei fa l'analista finanziario e quindi insomma una scrivania un po' più impegnativa della mia forse, che Moody's, Valeria, ha abbassato l'outlook delle banche italiane da stabile a negativo, riflettendo la diffusione della crisi finanziaria nell'economia reale, leggo testualmente, il conseguente effetto sulla qualità degli asset e la redditività degli istituti italiani. L'outlook negativo per le banche italiane, precisa l'agenzia di rating, esprime la visione dell'agenzia sulla possibile riduzione delle condizioni creditizie fondamentali dell'industria per i prossimi 12-18 mesi. Devo dire che questo giudizio non ha avuto alcun effetto in borsa, i titoli che erano negativi lo rimangono, Mediolanum -2, Ubibanca -1,54, quelli che erano positivi lo rimangono, Popolare di Milano +3 addirittura, e vedo tutti gli altri appunto leggermente positivi. Valeria, era un giudizio atteso? Era un giudizio atteso perché è stato preceduto in particolare ieri da uno studio di Nomura proprio sulle banche italiane e anche internazionali, che dava maggiore spunto alle banche internazionali per quanto riguarda le quotazioni e l'andamento economico nei prossimi mesi, proprio per il fatto che ciò che ha difeso le banche italiane dalla crisi, cioè il modello di banca commerciale, è però un limite in periodi in cui si può avere una maggiore deterioramento della qualità del credito, quindi più sofferenze che incidono maggiormente sui bilanci delle banche italiane piuttosto che su quelle internazionali, che comunque restano maggiormente indirizzate su modelli tipo investment banking e che quindi non hanno questo tipo di effetto, per cui direi che sostanzialmente un giudizio di questo tipo era atteso. Allora, solo che quando arriva da una delle tre sorelle, insomma, del comparto del rating, magari ci preoccupa un po' di più, però ribadisco, insomma, l'effetto a Piazza Affari sembra assolutamente inesistente. Fabrizio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie Fabrizio. Senta, un'informazione, così vedo che si sta parlando delle azioni, del nuovo indice, di tutto questo, volevo sapere chi detiene dei fondi azionari internazionali, cioè USA, Gran Bretagna, Francia, tutto quello che si è. Sì. Quando c'è lo stacco della cedola, per esempio il 30 di giugno è uno stacco della cedola, sì, può influire in qualche cosa questo cambiamento? Assolutamente. Guardi, se non influisce per chi ha un fondo esplicitamente indicizzato agli indici italiani, si figuri per chi ha una, come dire, un'esposizione sul mercato a livello globale. Sgombriamo di nuovo il campo da questo equivoco, da questa preoccupazione, Valeria Novellini. No, assolutamente non cambia niente. Eventualmente, no, per quanto riguarda lo stacco di dividendi, comunque sicuramente no, e questo neanche per quanto riguarda i fondi composti da azioni italiane. Eventualmente quello che potrà cambiare, ma i possessori delle quote non credo che neanche se ne accorgeranno, sarà che i fondi indicizzati all'ex SPMI, che diventa FTSE MIB, magari dovranno spostare un pochino al loro interno i pesi delle azioni che detengono per replicare esattamente l'indice. Questo è l'unico indice su cui di fatto è possibile già che ci siano dei fondi che replicano l'indice, perché abbiamo detto che gli altri indici nuovi sono proprio nuovi, quindi non esistono neanche dei fondi che sono indicizzati a quegli indici. Per cui non esiste assolutamente niente. Nessun tipo di pericolo come quello appunto paventato, del quale si spaventava il nostro ascoltatore. Tra l'altro, tra le altre novità sempre che riguarderanno la nostra borsa a partire da lunedì, non verranno più calcolati gli indici after hours, cioè quelli che venivano fino ad ora calcolati al termine delle contrattazioni regolari, quindi dalle 17.35 in avanti. Valeria, cos'è questo cambiamento? Beh, diciamo che per quanto riguarda il mercato after hours, anche qui il restyling, l'integrazione con la borsa inglese prevedeva alcuni passaggi, addirittura si pensava che le contrattazioni after hours avrebbero dovuto essere interrotte proprio per il mancato passaggio sulla piattaforma di contrattazione che viene usata sul mercato inglese. In realtà è stato raggiunto ieri un accordo in base al quale il mercato after hours sarà mantenuto aperto nelle attuali condizioni almeno per i prossimi 6 mesi, e quindi per 6 mesi ancora si andrà avanti così. E nel corso di questi 6 mesi sarà presa una decisione sull'evoluzione di questo tipo di mercato after hours, però ripeto, e questo è il motivo per cui non aveva più senso calcolare degli indici specifici. Abbiamo uno stand by, chiamiamolo così, insomma, almeno per questo segmento di mercato. Io vi ricordo ancora, avete ancora un paio di minuti di tempo per intervenire, 800 24 00 24. Non passo altre telefonate, banalmente perché stanno continuando ad arrivare le medesime telefonate, cioè tutta la questione dei fondi di ETF appunto indicizzati agli indici italiani, aspetto che abbiamo già ampiamente affrontato almeno per l'80% della nostra trasmissione. Arriva Valeria un'ultima domanda, poi in realtà ci mancano 2 minuti di tempo prima di salutarci. Il restyling della borsa italiana è un momento importante per le società quotate, perché stanno ultimando la diramazione delle trimestrali, poi fra un po' a fine giugno arriverà l'altra grande tornata, società quotate che stanno diffondendo i bilanci in una delle peggiori stagioni finanziarie ed economiche della storia. Io lo so che ti do 1 minuto e mezzo di tempo per potercelo dire, insomma, qual è lo stato di salute complessivo che è emerso fino adesso per quello che riguarda Piazza Affari, almeno secondo il tuo giudizio? Lo stato di salute, tenendo conto appunto del fatto che siamo in una situazione di crisi, è direi discretamente buono, nel senso che non ci sono state sorprese, soprattutto non sorprese in forte negativo rispetto a quelli che erano i consensus di mercato degli analisti sulle trimestrali. Quelle delle banche in particolare erano state precedute dalle analoghe banche europee che hanno diffuso i risultati prima, e le banche italiane hanno presentato risultati in sintonia, se non leggermente migliori. E la stessa cosa si può dire per quanto riguarda le aziende industriali, per cui ripeto, nessuna grossa sorpresa negativa, il che di questi tempi, diciamo, è già buono. Un'ottima notizia. Valeria, grazie molte per essere stata con noi. Valeria Novellini, analista finanziario del Sole 24 Ore. Abbiamo cercato di rendere comprensibile a tutti il cambiamento di volto che riguarderà la borsa italiana a partire da lunedì, cambio di nome per quasi tutti gli indici, qualcuno scompare, ma per far posto ad altri che ovviamente ne prenderanno il posto, scusate il gioco di parole, ma in ogni caso, insomma, tutto questo è il frutto dell'integrazione con la borsa di Londra che già conoscevamo, che si sta concretizzando sempre di più. Salva Danaio termina qui, grazie a Valeria Coffaro, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte oggi in assistenza tecnica, torniamo domani, buona giornata.